Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Nel mio lavoro non chiedo mai il perché, le domande che faccio riguardano il quando, il dove qualche volta, ma sempre il quanto. I walk past the bleak walls of an architect's unimagination. Quanto tempo ci hanno? 2 mesi, quindi le abbiamo salvate dalla macellazione. Io pensavo di adottarle. Vorrei dire che il presidente Berlusconi non ha fatto questo ai fini elettorali. Vorrei dare una notizia. Ci crede, ha una tenerezza nei confronti di questi animali che io ho potuto riscontrare. È meraviglioso. As if nothing had ever changed, you know that me and order your double mixer. E a proposito di Berlusconi, che tenerezza, l'hai visto domenica? Ha fatto le foto della campagna pubblicitaria per salvare gli agnellini. Agnellini o come li chiama lui, pecore quasi maggiorenni. L'agnello che ha allattato l'ha battezzata, sai? Ora, portarle a casa io non ho, come dire, un giardino. Peccato, non potrebbe peraltro. GGP lo potrebbe risentire. Ciao, ma che mi fai? Mi dai bacini? Bacini? La mamma. I've been told your new playmate successful and he's handsome and he's charming. Salva un agnellino. Pasqua mangerà l'agnello? Sì, nel senso che è una tradizione familiare. C'è la Coldiretti ha lanciato un hashtag diverso che è salva un pastore. Rispetto chi non mangia la carne, io la mangio. Se qualcuno mi tocca la bistecca alla fiorentina mi arrabbio. Signori, tenete duro, dai, 2 giorni e poi anche questa mega minchiata è finita. Quindi è solo una questione di 48 ore o più. E poi non so, non vedremo mentre si parla di Nord Corea, di guerra mondiale, di Russia e America che litigano in Siria, dell'ISIS che forse è dietro le bombe all'attentato alla squadra di calcio del Borussia Dortmund. Noi invece abbiamo i politici che adesso fanno la coda e la fila per farsi immortalare con gli agnellini. Gaia e gioia erano gli agnellini che le davano i bacini alla Boldrini. Ma allora vogliamo fare una cattiva Pasqua. Presidente De Luca. Ecco, Presidente De Luca, non lo so se abbiamo la possibilità di rispondere a questa domanda. Mangerà o no l'agnello, Presidente De Luca? Prelibatezze. Eccolo lì. Cioè abbiamo una risposta pronta su tutto e quindi la conduzione 4.0 è pronta. E se ci dobbiamo fare un ragù, facciamocelo, grazie a Dio. Tutto, di che cosa, di quale argomento volete parlare? Tutto c'è, vai. Immagino una frittura di cavallette. Vabbè, questa magari per Pasqua, non lo so. Non lo so, signori. Agnellini, agnellini, che ti ha combinato Berlusconi? Satanasso! Satanasso! Ne combina sempre una e poi dà il via a tutto questo circo. Ah, tra l'altro è la nostra amica Carla Rocchi a fianco di Laura Boldrini. Grande Carla, presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animale. Ma lei fa il suo lavoro, lei ci crede, giustamente è presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali e quindi protegge gli animali. Questi. Poi c'era il problema della Boldrini che si adotta Gaia e Gioia, i due agnellini. Poi il suo omicino non sarebbe molto d'accordo a casa. Come si fa? Come si fa? Lorenzo Nespoli, come si fa? Peter Bescapè, come si fa? Non vi dico la soluzione proposta da Lorenzo Nespoli, perché sennò No, non ve la dico. Vabbè, poi sì, ci sono tutte le battute su Berlusconi e la pecorina. Quando poi su Berlusconi le pecorine e la pecorina, cioè, l'ho sentita 5.000 volte, poi non fa neanche più ridere. Allora, signori, a Bonassola, provincia di La Spezia, ci sono 14 gradi, mentre a Cernusco sul Naviglio 13 gradi, a... Dove? Tra Velletri e Genzano 9 gradi e cielo sereno, un abbraccio ad Alessio. E poi 10 gradi a San Pellegrino Terme, il ciclista Marco ci fa sapere questo, come sempre. A Paratico oggi fa freschetto 11 gradi, un saluto a Roberto. 13 gradi a Legnaro, Padova, 11 gradi e mezzo a Varese. E ancora 6 gradi a Berlino, 12 gradi ad Arzignano, Vicenza, un bacio anche a te Fabrizia. E poi, che dobbiamo dire? Niente, questi sono tutti i nostri ascoltatori, 11 gradi a Lugano, sereno. Mentre a Fiumicino 10 gradi, Antonio. Oh, a Belsedere 12 gradi, Lorenzo... Lorenzo, bel sedere. Questa puzza un po'. 11 gradi a Bonate Sotto. Signori, eccoci qui alle 6:36 minuti. Voglio subito salutare Maurizio Bianconi. Buongiorno. Direzione Buongiorno. Italia, il nostro deputato. Eccolo qua. Adesso chiediamo Buongiorno. Tutto, chiediamo tutto, perché adesso se un politico non dice la sua sugli agnellini è un casino qua. Intanto insieme a Maurizio Bianconi saluto Vincino, l'ultima volta avete questionato un po', ma adesso calma. Una volta. Come va Vincino? Dove stai? Per la strada. Ma in che senso per la strada? Cioè sei un barbone? No. Dove? Per la strada, col telefono per la strada. Sì, ma dove? Dove? In una via di Roma. A Roma, eccoci a Roma. Che cacchio. Ogni tanto stai a Mondello, ho detto magari per la Pasqua è andata a Mondello. Tra l'altro, a proposito di Mondello e di Pasqua, domani non siamo in onda, ve lo dico subito, domani non siamo in onda, Peter Bescapè, sei contento? Cioè, nel senso no, siamo in onda, io non sono in onda. No, c'è tutto, è tutto regolare, ma non ci sarò io. Allora, Maurizio Bianconi, apriamo il Parlamento, perché qui abbiamo aperto il Parlamento anche a Gaia e Gioia. Gli sale sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente! Che ha pensato quando ha visto Gaia e Gioia lì? O cosa vuole che pensi? Non lo so. La Boldrini non ci smentisce mai. Vabbè, adesso, perché? No, vabbè, sì, ma è una cosa così scema, così inspiegabilmente... È incredibilmente scema. Ma perché? Guarda che ti chiamo subito Carla Rocchi qua. Ma Carla Rocchi fa, l'ha detto lei, fa il suo mestiere. Ne potrebbe scegliere uno meglio. Ma se ti piace quello, il suo mestiere. Anche Berlusconi. No, ma che vuole, lasci fare Berlusconi perché. Anche a Pavote così, no, però aspetta. È salito per 5 punti con 5 pecorelle. Eccoli. Vorrei capire perché è una cosa così scema, Bianconi. Ma perché? Tanto è una cosa che puzza di una retorica vomitevole ed è poi a comando. E fa parte delle non notizie che diventano notizie perché siamo un popolo di testa di cazzo. Cari italiani, Vincino, diciamolo chiaramente, Vincino testa di cazzo. No, popolo di testa di cazzo. Loro sono così. Ecco, subito siamo partiti. No, Vincino, caro. No, l'ha detto non ho capito. Loro XM sono così. Sì. Popolo di testa di cazzo. Loro un popolo che si confonde con queste cose, cioè succedono delle cose da brivido e come lo diceva prima lei e si sale più le pagine con questo vecchio rintronato che dà il latte a questo agnellino, sì, per metterci di mezzo, e quest'altra capava di rimanere indietro nelle coglionerie e la dotta tu, ecco, siamo una follia pura. Cioè, cosa vuole che le dica? Siamo una follia pura. Non lo so. Mi viene il dubbio. Ci dica il menù, cioè, siamo che? A fantasi tante. A fantasi. Dove sei scemi, non lo so io. ci dica per chiudere la questione il menù di Casa Bianconi a Pasqua. No, io l'agnello non lo mangio perché non mi piace. Non mica che non è che lo mangio. Non piace. Non mi piace. Non ho idea che menù facciano. Non lo siamo so. Diciamo... antitradizionalisti. Casa mia, su questo. Non proprio d'accordo, non si festeggia nulla, siamo visti. Vabbè, però non so, Vincino, Berlusconi dici ha fatto il suo lavoro, ha fatto il suo mestiere. Assolutamente sì, non è stata affatto una mossa scema. Guarda che questa qua devi mangiare questi animali, è una contraddizione pazzesca. Attenzione, il vegano Vincino, cioè perché? Ma dov'è che cacchio sei? Cioè? Dai, non è che... Ma dov'è che sei? Spiegami cosa vedi. Sei in strada e sentono dei rumori. La strada che cammina. Cioè, la strada sta ferma. No, la strada sta ferma. Tu cammini. Esatto, e dove stai? Perché cammini? C'è una cattedrale in fondo. A Roma c'è sempre qualche... una cattedrale c'è sempre. Panire, cattedrale in fondo. Ok, poi tu sarai troppe cose. Non lo so, ma restare nella stanza. No, ma perché cammini alle 6:40 del mattino per Roma? Si sentono dei rumori. Bisogna, la Roma è bellissima alle 3 del mattino. Alle 3 del mattino, cioè sei in giro dalle 3 del mattino? No, alle 6 ho detto. Alle 6 del mattino. No, vabbè, Berlusconi ha fatto il suo mestiere, dai, ha acchiappato voti, questo ha fatto Bianconi, dai, rassegniamoci. Sì, vabbè, per questo che si va così bene, se i voti si acchiappano così. E se non ci si fa acchiappare così, siamo un po' di testa di cazzo. Eccolo là. Punto. Popolo di teste di cazzo, cari ascoltatori, siete un popolo di teste di cazzo. No, siamo, non siete. Io mi volevo tirare fuori, porca miseria. No, cavolo, sempre quell'altro, anche noi. No, tutti teste di cazzo, tutti. Io, Bianconi, Vincino, tutti quanti. Noi diamo la possibilità di diventare protagonisti della politica a un comico bravissimo come comico. Sì. A un guitto di provincia e a questo vecchio malefico. Non c'è niente da fare, non può andare che così. A questo vecchio malefico è Berlusconi, capito Vincino come si è... Due volte l'ha fatto diventare deputato. Ha cambiato idea adesso, non lo so. Io adoro il Corriere della Sera, per 20 anni ho lavorato al Corriere e l'adoro, non sputerei mai sul Corriere, assolutamente, c'è una dignità umana nella vita, no? Che o la si ha o non la si ha, ecco. Giusto per essere poco polemico. No, ma io gli voglio bene, come dire. sì, certo, vuole bene, quindi non ha dignità Bianconi perché ha votato 2 volte Berlusconi. No, 2 volte è stato portato deputato. Sei stato portato deputato. Io sono stato portato purtroppo deputato dal Popolo della Libertà, esatto. Avendo un onorevolissimo passato in Alleanza Nazionale. Passato in Unione Italiana. Si vogliono bene, si vogliono bene. E Berlusconi dal primo posto che ero nella mia lista mi ha portato una volta al 12° e una volta al 4°. E quindi non è che io sono da dirgli niente a questo, se non che mi ha portato dei grandissimi dati. Non lo dico adesso, l'ho sempre detto, ho sempre votato come mi è parso. È stato un errore micidiale allearsi con quest'uomo, i suoi accordi, e ora lo stiamo pagando tutti, non solo noi. Però signori, intanto c'è un Renzi che reagisce. Questa ve la voglio chiedere. Allora, intanto, Vincino, tu quanti carabinieri hai trovato nella tua vita che potrebbero aver fatto quello che potrebbe aver fatto? Guarda come sono con le mani avanti. Il capitano Scafarto. Metà dei carabinieri che esistono possono fare quello, vero? Io ho incontrato carabinieri che mi hanno picchiato in caserma, no? Ce lo ricordiamo. E allora, come? c'è un carabiniere picchia, due carabinieri picchiano un povero studente in caserma, innocente totale. Perché ricordiamo che era studente, anni. Era studente. Dove ha, sì. A Gela. A Gela. Facciamo il rivoluzionario di professione là. Ma sei il rivoluzionario di professione, pagato proprio, capito? No, pagato il callo. È rivoluzionario vero. A rivoluzionario. Tempo pieno, come dire. Sì. E picchiato, quindi metà dei carabinieri. Certo, Bianconi, questo è grave, eh? Certo, Renzi la sfrutta. No, abbiamo la metà che assolvo. No, adesso Renzi la sfrutta dicendo querelo tutti, querelo il falso quotidiano, come chiamano il fatto quotidiano. Però questo è grave, Bianconi, eh? Guarda, io faccio l'avvocato da 46 anni e quello che è successo capita e come. Non è che è capitato qui. Capitava negli anni 70 quando facevano i processi ai cosiddetti terroristi rossi e neri, mi è capitato in vari processi ordinari e purtroppo Come lo definisce? Capita quello? Che fanno le indagini come gli pare, addirittura potrei portargli un ricordo nitidissimo che io ho tipo? Di uno che è stato in carcere oltre 3 anni in un processo politico e veniva dentro soltanto, non stava beccando su niente se non per la falsa testimonianza che aveva fatto davanti ai carabinieri secondo loro, e allora c'erano le carte carbone, davano le copie, no? Sì. E quindi non c'erano neanche le fotocopie. E che è successo? Sostenevano che questo aveva fatto la falsa testimonianza e lo tenevano in galera. 2 anni ce l'hanno tenuto. Io, non volendo, dentro un paio di pantaloni ho ritrovato riaccartocciata la copia dell'interrogatorio come imputato, allora si diceva così, e di cui ero difensore d'ufficio. E poi esibì in corte d'assise questa copia e lo fece assolvere, cioè l'avevano interrogato come imputato, avevano fatto sparire quel verbale, l'avevo fatto diventare testimone in un'informativa e l'ha tenuto dentro 2 anni perché era politicamente compromesso. Sì. Quindi le ho viste, queste cose succedono. Questo non inficia ovviamente tutto il resto, ma ci sono queste cose qui. Cioè, tutto il resto che vuol dire? Cioè, questo non fa. L'arma dei carabinieri complessivamente è una delle cose meno malate del paese, non voglio dire sana. Meno malato, questo sì. E dopodiché le ricordo la famosa battuta di De Sica nel film Pane, Amore e Puntolini, in cui lui era un maresciallo dei carabinieri in pensione e faceva il capo dei vigili urbani, mi pare a Sorrento, ma non sono sicuro, nel quale, vantando la dignità dei carabinieri, diceva: oh, io sono un carabiniere serio, ho servito con eguale dignità il regno, il fascismo e la repubblica. No, ecco. Ecco, e quindi servono molto bene. Va bene, qua ci chiedono di candidarsi con Bianconi. C'è un ascoltatore che dice: Gennaro, vorrei candidarmi con Bianconi, Direzione Italia. Traffico, sottoponiamo un piccolo test. Traffico. Il vero problema di Milano? Il traffico. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. Sono tutti in mezzo corrotti questi qua, politica compresa, è ora di finirla. Io sono contento di avere 52 anni, perché a parte tutti quanti i problemi, sappi che i tuoi figli e i miei figli dovranno convivere con la dittatura animalista. E non se ne può proprio più di questi gobbi. E basta, è che la vincano, è uguale. Ce ne faremo una ragione, dai! Non lo so, questo qua si è fatto una cana, cosa si è fatto? Quando mette il nome di un popolo, questa qua è una forma molto grave di razzismo o di imbecillità. Cosa pensa lei adesso di Di Maio e cosa vorrebbe dirgli? Prima di aprire la bocca, di collegarsi bene i sinapsi. Working for peanuts is all very Costui è il presidente dei romeni in Italia, Popescu, ce l'ha con Di Maio, che ha snocciolato delle cifre, tra l'altro citate anche da un magistrato, il magistrato Ardita, che era a Ivrea e in pratica ha detto: importiamo il 40% dei criminali romeni. Sai che su questa cosa, allora Vincino, dai, di la tua su Di Maio, su. No, ma aspetta, Di Maio ha un grave problema perché gli stanno rubando la leadership, la cosa, no, sì. Perché quello là è molto meglio naturalmente. Sì, quello là chi è? Quello il là. Figlio là, il figlio, il come si chiama? L'erede è molto meglio. Casaleggio, il ragazzino è molto meglio, assolutamente, non è più preciso. Ma mica Casaleggio si vuole candidare, mica. Assolutamente sì, lo fanno Presidente del Consiglio fa quello, non lo fa Di Maio. Deve cercare in tutti i modi di fare dei casini per riacquistare la gli levano il simbolo. Io ti devo salutare, sì. Voglio solo dire una cosa. Bianconi è uno dei migliori che ci sta là, però obiettivamente devi... sicuro. No, poi come dire, ha fatto l'avvocato difensore e tutto, assolutamente, e con questo ti saluto. Ma perché? Un abbraccio a tutto, perché la strada va avanti. Bianconi, un aiuto assolutamente umano intanto. Ciao Vincino, ciao. Bianconi, facciamo qualcosa. Cioè, mica, ci sono degli strumenti in potere. Cioè, per esempio, il sindaco può fare un TSO. No, in quanto... Io ho capito, ma poi arriveva la Corte Costituzionale e diceva che non lo può fare. Ah, un deputato può fare qualcosa in questi casi nei confronti di un Vincino che l'ho sentito un po'... No, poverissimo, mi è anche simpatico. Ma certo che c'è simpatico il nostro mito Vincino. È un po' così, uno scoglionato. Uno scoglionato. È uno simpatico. Vabbè, però... Di Maio ha detto una cosa vera. Questo fa parte dell'Italia, appunto, no? L'Italia si scandalizza delle verità. È vero che importiamo il 40%, l'hanno detto, ci sono le cifre. Non è che poi ha detto altre sciocchezze tutte intorno, ma la cifra l'ha detta vera, è così, c'è poco da fare. Non si deve le scatole. Se lei va ora in Romania, trova un paese di persone per bene, perché l'hanno mandato tutti qua. Ecco. D'altro canto, se fossi un delinquente, io. In Romania se li mettono dentro gli passa la voglia e qua gli viene da ridere, quindi vengo qua ammesso che poi riescono ad andare dentro e quindi insomma Di Maio, beh, questa è un'altra notizia, insomma Bianconi che difende in questo caso. Io difendo la verità. Se poi la verità la dice Di Maio, che spesso dice delle emerite scemenze, perché anche tutto intorno a questa verità ieri ha detto delle scemenze. Siamo in queste condizioni perché noi abbiamo fatto un diritto penale che non si manda dentro nessuno per tenere fuori i politici, e questa è una coglioneria emerita. Certo. Abbiamo fatto un diritto così perché c'è una giustizia inefficiente e c'è un eccessivo, da una parte un'eccessiva tutela dei diritti pretesi e degli indagati, dall'altra una soppressione degli stessi diritti. Sì. E siamo sempre nel troppo vuoto, il troppo pieno, no? Sì, no, è chiaro, è chiaro. Vabbè, Bianconi, dove passerà la Pasqua? A casa. Ad Arezzo. Ho questo braccio, no, a Firenze. A Firenze, come va la spalla? A casa Renzi? No? Magari a bere sto a casa mia, a casa Renzi, non l'avrò pagata io, no, carai, Sì, no, questo sì. Allora, caro Bianconi, noi per concludere abbiamo... inserito una rubrica da qualche giorno, lo sa, forse una volta vi ha detto anche a lei, che sono le metafore di Bersani, o meglio le frasi di Bersani, perché per me la metafora ce n'è una, se fatta bene, a far capire con immediatezza un concetto anche magari non semplice a volte a tutti quanti. Ce n'è una che ieri abbiamo fatto sentire, ma che sulla quale i nostri ospiti si sono un po', non so, ingamberati. Allora magari una spiegazione ce la dà Bianconi. La frase di Bersani del giorno è questa: monti più tre monti sono quattro monti e sono troppi. Allora ha ragione. però che cosa vuol dire? Cioè, la matematica, che uno l'ha incominciata a fare due monti. I danni... cioè, i danni sono cominciati da Tremonti e Don Monti ne ha finiti. Il primo che ha fatto la politica anti-italiana contro i consumi e contro il ceto medio è stato Tremonti. Una delle mie cavalli. Certo. I sapori con Berlusconi sono incominciati con i provvedimenti Tremonti. Quindi è perfetto. Poi, essendo servi dello stesso padrone, evidentemente poi Monti ha completato l'opera. Quindi Monti più Tremonti, quattro Monti. Esatto. Doveva essere che Tremonti era peggio di Monti, invece Tremonti sono stati in qualche meno peggio di Monti, che è stato un disastro. Beh, ma straordinario, una spiegazione perfetta del nostro Maurizio Bianconi, direzione Italia, che saluto insieme a Vincino che vaga per le strade di Roma e se n'è andato prima. E va bene, un abbraccio a tutti qua. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. E all'inmila e lì gestisci un rangiano di mia 24 mattino. E allora siamo qui alle 7:20 minuti con la lettura dei giornali e lo spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino. Andiamo, Peter. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a giovedì 13 aprile, domani invece io me ne starò a casa, ma anche lunedì peraltro, ma è così, e poi ci rivedremo e ci risentiremo martedì. Così, piccola informazione di servizio. Allora, all'apertura dei giornali, il Sole 24 Ore, Cuneo, spending review IVA, la manovra parte da 17 miliardi. Questa è la cifra per quel che riguarda il DEF. Poi l'attualità internazionale per il Corriere della Sera, Trump, Putin, la lite siriana, questo è il titolo di prima pagina, ma anche quello che è successo a Dortmund, la pista islamica, i calciatori dovevano morire, questo è il titolo principale di Repubblica, che tra l'altro vi segnalo oggi anche una intervista al Papa, il mondo fermi questa guerra a pezzi, così il Papa, tra poco lo vedremo su Repubblica. Il giornale, Jihad contro i VIP, bomba sui calciatori del Borussia, arrestato un islamista. Siria, tra i grandi volano solo parole, è il titolo di apertura di Avvenire. Mentre, se torniamo alla questione economica italiana, il Messaggero, lavoro, tasse giù, l'IRPEF non cala. Mentre la Stampa, povertà, il piano del governo, assegno a 600.000 famiglie. Sulla politica, la verità, colpo di mano per trasferire i PM, guai a chi indaga sui politici, una norma presentata al CSM da un renziano e un altro consigliere chiede di indagare sullo scontro tra le procure di Roma e Napoli. Per il Fatto Quotidiano, Renzi mente in TV a colpi di insulti, minacce al Fatto. Ormai è guerra totale tra Renzi, che chiama il Fatto Quotidiano il falso quotidiano, e il giornale di Travaglio. Di Maio in peggio è invece l'apertura del Manifesto. Le polemiche sulla frase di Di Maio, l'Italia importa il 40% dei criminali rumeni, quella che il Manifesto dice è una sparata razzista. Allora, iniziamo proprio da Dortmund, dalla pista islamista. La festa tra i tifosi, ieri la partita si è giocata con 24 ore di ritardo e l'arresto, un iracheno fermato, è un islamista, ricordiamo la vicenda due ore dall'inizio della partita Borussia Dortmund-Monaco, due ordigni che esplodono al passaggio, anzi tre ordigni che esplodono al passaggio del pullman del Borussia Dortmund, schegge che colpiscono il pullman, una penetra all'interno e ferisce in modo non grave al braccio un calciatore, partita sospesa, la polizia che rinviene due lettere di rivendicazione, è stato fermato almeno un sospetto con legami con l'estremismo islamico, si tratta di un 25enne iracheno, mentre un secondo indagato sarebbe un tedesco di 28 anni. L'apertura del Corriere della Sera dedica alla festa sportiva di ieri, tanto che Danilo Taino racconta la stupidità del terrorismo probabilmente islamico, ha confezionato ieri poi una gloriosa festa di calcio rinsaldando il legame tra tedeschi e francesi. Sta di fatto però che al di là di questo c'è l'aspetto inquietante dell'attacco, secondo il giornale, appunto, si volevano colpire i VIP. Il Corriere della Sera mette a pagina 3 anche la storia del film Timbuktu di Sissako, un film in cui il calcio viene bandito dai jihadisti, cioè il tema è perché avrebbero colpito una partita di calcio. Beh, prendere di mira un team di calcio rientra nella tradizione jihadista, racconta Guido Limpio a pagina 3 del Corriere della Sera. Hanno iniziato gli estremisti algerini, presenti in Europa sul finire degli anni 90, con azioni sventate. Ha proseguito Al-Qaeda, ha raccolto il messaggio allo Stato Islamico, i kamikaze allo stadio di Parigi, l'allarme che ha spinto nel novembre le autorità di Amburgo a cancellare all'improvviso un incontro della nazionale tedesca sono prove tangibili dei pericoli, anche perché i criminali sono consapevoli di come, coinvolgendo un evento sportivo, il loro gesto sarà amplificato. Avrà una copertura mediatica, un'attenzione generale, dunque un ritorno di popolarità, ovviamente tra virgolette, tra gli estremisti. E dunque ecco il motivo per cui forse bombe a Dortmund, la pista islamica, la polizia frena un po', ma la procura dice volevano uccidere i calciatori sul pullman. C'è stata anche la rivendicazione con un volantino morte alle celebrità pagane. In tutto questo è un mondo di guerra, un mondo in cui la diplomazia deve ripartire soprattutto sulla Siria, e su questo si impernia l'intervista che il Papa concede a Repubblica al vaticanista Paolo Rodari. Titolo: il Papa degli ultimi, pagina 2-3. Fermate i signori della guerra. La violenza distrugge il mondo e a guadagnarci sono solo loro. Oggi il Papa entra in carcere. Chi non è colpevole scagli la prima pietra. Anch'io sono peccatore. Diciamo, gran parte dell'intervista ovviamente è legata a questo, alla sua visita il Giovedì Santo in carcere. Ma poi la cosa più interessante, che poi dà il titolo, è il Papa che parla della guerra e delle guerre, dice cose da Papa ovviamente. Penso che oggi il peccato si manifesti con tutta la sua forza e distruzione nelle guerre, dice il Papa Repubblica, nelle diverse forme di violenza e maltrattamento, nell'abbandono dei più fragili. A farne le spese sono sempre gli ultimi, gli inermi. Mi viene solo da chiedere con più forza la pace per questo mondo sottomesso ai trafficanti di armi che guadagnano col sangue degli uomini e delle donne. Il secolo scorso è stato devastato da due guerre mondiali micidiali, ha conosciuto la minaccia della guerra nucleare e un gran numero di altri conflitti. Oggi purtroppo siamo alle prese con una terribile guerra mondiale a pezzi. Ma qual è lo scopo, secondo lei, di queste continue guerre? Chiede Rodari. Me lo chiedo anch'io, sempre. A che scopo? La violenza permette di raggiungere obiettivi di valore duraturo? Tutto quello che ottiene non è forse di scatenare rappresaglie, spirali di conflitti letali che recano benefici solo a pochi signori della guerra? L'ho detto più volte, lo ribadisco. La violenza non è la cura per il nostro mondo frantumato. Così il Papa intervistato da Repubblica. Vale, vediamo a cose un po' più piccoline, storielle, però che mi hanno fatto incuriosire, che sicuramente possono essere, diciamo, di divulgazione popolare. Tipo questa: Repubblica, parcheggia nel posto dei disabili, condannato per violenza privata. Succede a pagina 19, lo racconta Maria Elena Vincenzi, a Roma, dove un signore, Mario Milano, automobilista irrispettoso di 63 anni, lei invece, la donna che l'ha querelato, Giuseppina, disabile di 49 anni, che aveva un parcheggio sotto casa assegnato nominalmente, la denuncia arriva fino alla Cassazione, l'uomo è stato condannato in via definitiva a 4 mesi di carcere per violenza privata. Parcheggiare nello spazio per i portatori di handicap è un reato penale, e questo signore lo ha capito a proprie spese. Poi, signore, state attenti a parlare male del capo. Caro Lorenzo, stai attento a parlare male del capo. Caro Peter Bescapè, anche tu. Su WhatsApp, soprattutto. Parlano male del capo su WhatsApp, licenziate. Elvira Serra racconta, pagina 23 del Corriere della Sera, questa vicenda di due dipendenti di una piccola azienda nel Parmense, licenziate per aver parlato male del capo nella chat delle colleghe su WhatsApp, con tanto anche di o delatore, chiamatelo come volete voi, di colui, la spia che è andata a prendere le schermate delle WhatsApp a farle vedere al titolare dell'impresa, che a gennaio ha inviato alle operaie una contestazione disciplinare e dopo qualche giorno la lettera di licenziamento. Ora c'è tutta una causa, ovviamente, il legale, la legale ha presentato ricorso al giudice del lavoro dicendo che il provvedimento è sproporzionato. L'esperto sentito dal Corriere dice: attenzione, erano più di due persone e quindi non è una questione di corrispondenza inviolabile, o meglio, il tema è da chiarire, perché erano più di due persone a chattare. Ma signori, siamo all'articolo che mi fa fuori della giornata, quello da mani sul volante se siete alla guida, magari siete già verso le vostre località di villeggiatura, visto che le scuole sono chiuse. Furbacchioni, vi conosco. E allora, è un caso di assenteismo e succede a Pavia. E fin qui dici, vabbè, non è la prima volta che ci racconti un caso di assenteismo. Ma sapete chi erano gli assenteisti pizzicati a fare la spesa, a fare sport durante l'orario di lavoro? Erano ispettori del lavoro, cioè coloro che dovrebbero controllare se Lorenzo Nespoli, quando ci dice che sta a casa malato, in realtà, oppure quando timbra il cartellino, non vada a fare la spesa al supermercato. E eccolo qua, ispettori del lavoro, ma anche furbetti. Sospesi per un anno e rischiano il licenziamento, sono 7 funzionari incaricati di controlli sul rispetto delle norme dei furbetti del lavoro. Ma straordinario, ma è bellissimo, ma è fantastico, ma è geniale. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan, il leone da microfono dell'informazione. Addirittura. E allora siamo qui, cari ascoltatori. Allora, i conti, l'economia. Il titolo di pagina 10 di Repubblica non è di quelli più incoraggianti per l'autunno che ci aspetta. Allora, il Sole 24 Ore mette questa cifra, la manovra parte da 17 miliardi, cioè il DEF e la manovra 2018 che parte da 17-18 miliardi, perché nel DEF sono indicati tagli al cuneo fiscale, nuova spending review, sterilizzazione dell'aumento dell'IVA, ma niente tagli IRPEF. Ecco, questo tema, sterilizzazione dell'aumento dell'IVA. Salto su Repubblica perché c'è questa cifra, a caccia di 35 miliardi per non aumentare l'IVA e per spingere lo sviluppo. Roberto Petrini racconta a pagina 10: sarà un autunno caldo. Vabbè, insomma, questa frase è un classico luogo comune. Sul fronte dei conti pubblici, autunno caldo. Il presidente del Consiglio Gentiloni, il suo ministro Padoan, saranno impegnati in una caccia grossa alle risorse. Per imbastire l'ultima legge di bilancio della legislatura, con l'avvicinarsi delle elezioni, dovranno cercare 35 miliardi. Non sarà facile, giungono infatti notizie di difficoltà nel chiudere il quadro della manovra da 3,4 miliardi. La cifra di 35 miliardi è composta in prima battuta dalla manovra vera e propria, che serve per far scendere il rapporto deficit-PIL dal 2,1% all'1,2%. E lì appunto sono 17 miliardi. Ma poi significa che invece di risolvere il problema con un semplice numeretto portando l'IVA dal 22 al 25%, bisogna andare a caccia di tagli della spesa. La caccia complessiva di risorse per circa 30 miliardi, affidata sostanzialmente a tagli alla spesa e lotta all'evasione, che non potrà utilizzare l'aumento delle tasse, tantomeno quello dell'IVA. Un'operazione ovviamente non facile. Staremo a vedere come si può concretizzare. Tra l'altro, per il giornale invece su questo tema torna il fantasma del voto e saltano i tagli alla spesa. C'è questa frase che si è lasciato sfuggire Padoan secondo il giornale: così si deprimerebbe la crescita. Insomma, è un addio finale alla spending review. E questo staremo a vedere. Come vedete, su Sole 24 c'è scritto invece che ci saranno le nuove previsioni di taglio della spesa, ma vediamo. Comunque, La Stampa invece, sempre per quel che riguarda i conti pubblici, si concentra su un tema che è quello dell'assegno a 600.000 famiglie, il piano povertà. Famiglie che riceveranno da 300 a 500 euro al mese, il via a maggio. è il famoso REI, reddito di inclusione, la lotta alla povertà con 300-500 euro al mese a 600.000 famiglie, pronto a maggio, interesserà 2 milioni di persone in difficoltà. E Paolo Baroni snocciola tutti i dati a pagina 2 della Stampa. Con questa azione di contrasto alla povertà, ovviamente niente si fa a costo zero. E quindi a pagina 3 ci sono i rischi e i vantaggi dell'assegno per i più deboli, con gli esperti, i patronati, gli enti locali che si interrogano. Roberto Rossini, delle ACLI, dice per esempio: è un bel successo dopo anni di battaglia. Siamo molto contenti, è un successo di una battaglia iniziata nel 2013. Mentre dall'altra parte Alessandro De Nicola, economista, sempre intervistato sulla Stampa, dice: attenzione a non scoraggiare chi è in cerca di un posto. In linea di massima non darei un giudizio totalmente negativo, ma mi chiedo se questo reddito di inclusione, il REI, rispetti alcune condizioni chiave. La prima è che se non, non configura una trappola, nel senso che il bonus mensile diventa un disincentivo a cercare lavoro. Sarebbe opportuno, ad esempio, ridurre nel tempo l'assegno o comunque che il beneficiario dia alla società una prestazione in cambio. C'è il precedente del vecchio servizio civile e quello meno positivo dei lavori socialmente utili. Dunque De Nicola teme che questo reddito sia un po' così il classico sussidio di disoccupazione, ecco, più che un reddito di inclusione, un reddito per contrastare la povertà. Tra l'altro sul MEF, sul Ministero delle Finanze, c'è un articolo interessante di Francesca Schianchi che propone in anteprima alcuni brani del libro che Renzi ha scritto e che verrà pubblicato, credo a giorni. E sentite qui: Renzi contro i dirigenti del MEF. Hanno brindato il 4 dicembre. Per mesi hanno detto che avevo lasciato un buco nei conti, ora si dimostra che non è vero. Nelle settimane scorse l'ex premier Renzi aveva dichiarato in pubblico e in privato la sua contrarietà all'introduzione di nuove tasse per la manovrina da 3,4 miliardi. Parlando con i collaboratori ha anche individuato i responsabili di quella che ritiene una campagna contro di lui. Sono i dirigenti del Ministero dell'Economia. E infatti nel libro che uscirà, ecco, il 10 maggio, dice di loro: alcuni di loro brindavano alla mia sconfitta il 4 dicembre. E poi, sempre in questo libro, Renzi scrive, anticipazioni, Calenda, ministro dello sviluppo economico, sarebbe un'ottima idea come leader di centrodestra. Ovviamente sarebbe un'ottima idea per il centrodestra, non so quanto sarebbe per lui. Sempre nel libro fa i complimenti a Gentiloni e al ministro Padoan: bravi, le tasse non aumentano. Vabbè, questo è il retroscena, se volete, su Renzi. E poi c'è la politica, il caso Consip. Il caso Consip, che ovviamente è ancora su tutti i giornali dopo l'errore, o così viene definito dalla Procura di Napoli, perché a questo punto viene ammesso che un errore c'è stato, quello del capitano dei carabinieri Scafarto. Errore grave, ma nessun complotto. Ecco, interessante intanto lo scontro tra queste procure, Napoli e Roma. Liana Milella racconta oggi su Repubblica gli umori in casa Woodcock, cioè PM di Napoli, il PM Woodcock, e la polemica sui falsi negli atti scoperti da Roma. Alcune frasi strappate qui e là, perché in realtà interviste non ce ne sono. Woodcock dice: come tutti i magistrati non posso parlare, ma frasi attribuite a Woodcock sono queste: Paolo Ielo lo stimo e sono suo amico, la lite tra procure non esiste, e la vicenda del carabiniere del NOE che attribuisce l'intercettazione a Romeo anziché a Bocchino è un grave errore, senza dubbio, dice Woodcock. Ma mi chiedo, cui prodest? Perché il capitano avrebbe dovuto fare questo? Perché avrebbe dovuto mettere in atto una pianificazione eversiva contro Renzi? A me pare davvero una cosa da pazzi. Insisto, un progetto eversivo solo un pazzo può pensarlo. E se fosse la vendetta postuma dell'ex vice comandante del NOE Sergio De Caprio, cioè il capitano ultimo che catturò Riina ma è stato rimosso dopo l'uscita di un'intercettazione del NOE tra Renzi e il generale della Guardia di Finanza di Nolfi? A questa domanda Woodcock risponde coi collaboratori: innanzitutto Scafarto non ha mai lavorato col capitano ultimo, non fa parte della sua squadra storica, e poi via, adesso De Caprio lavora nei servizi, quindi è un dipendente della presidenza del Consiglio. Ora, queste sono le, come dire, le impressioni della Procura di Napoli e di Woodcock. Certo, Fiorenza Sarzanini fa sapere che sul caso Consip due carabinieri smentiscono il capitano anche non tanto sulla questione dell'intercettazione, ma anche sulla questione dei falsi pedinamenti. Perché Scafarto ha denunciato di essere stato pedinato dagli 007 mentre andavano a fare il loro lavoro nel caso Romeo, mentre due carabinieri dicono di avere raccolto una versione molto diversa, cioè hanno chiarito che nelle annotazioni fatte rispetto a una persona che avrebbe seguito il capitano Scafarto, in realtà erano delle persone normali, assolutamente abitanti della zona. Renzi su questo è molto molto arrabbiato, ce l'ha con quello che lui chiama il falso quotidiano, cioè il Fatto Quotidiano, il giornale Marco Travaglio, che oggi infatti titola Renzi scatenato sul fatto, insulti, minacce, bugie, e l'ex premier che dice buonismo finito, ora passo alle querele. A proposito di querele, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Beh, sai che io sono sempre pronto a querelarti, no? Il mio avvocato è sempre, sempre in vigile ascolto. H24. Assolutamente. Però, caro Alessandro, oggi innanzitutto vorrei farti gli auguri. Grazie. Per sabato. No, esatto, io ti faccio Pasqua. Tantissimi auguri. Domani non ci sentiremo, ci sarà Giulia Crivelli. Augurissimi, sarà un derby cinese fantastico. Domani non ci sei, lunedì non ci sei. Alessandro Milan, il fannullone dell'informazione. Va bene. Questa rifacciala bene con più enfasi, che poi la mettiamo. Vuoi questa frase? Vai. Alessandro Milan, il fannullone dell'informazione. Come sono perfetto, andato? Perfetto, poi adesso ci montiamo sulla sigla. Va bene. E dai. Questo è Peter, che invece domani sarà presente, lui. Invece è tetragono. Senti, parliamo rapidamente di questa giornata che, come sai, è decisiva. Sì. È decisiva per il closing, c'è il closing, Alessandro, ma come non no? Dici nulla. E caspita, ne parla anche il Sole 24 Ore, ne parla sulle pagine di Finanza e Mercati che tu leggerai avidamente come sempre. Certo. Ti consiglio da staccare e conservare oggi la pagina 3, perché diamo delle anticipazioni su questa manovra correttiva da 3 miliardi e 400 milioni, che però, diciamo, c'è la manovrina, ma c'è in copertina, che non è una rima un po' così banale, ma per il fatto che ancora è un po' approvata, sai, salvo intese, quindi qualche misura potrebbe essere ulteriormente ritoccata, ma stacca e conserva la pagina 3, è un consiglio, e poi anche le pagine che trovi in norme e tributi, quelle sempre religiosamente da leggere, oggi anche appunto per i contenuti della manovrina, le anticipazioni sulla manovrina da staccare e conservare. Ti consiglio anche Impresa e Territori, è stato siglato il contratto sulla mobilità per i professori, quindi ci sono nuovi paletti per scegliere i prof, te lo avvisa Claudio Tucci proprio sulle pagine di Impresa, che tu leggerai, non sei pronto, scrupolosamente, scrupolosamente, avidamente la finanza, religiosamente le norme, scrupolosamente Imprese e Territori. Fatti uno specchietto questi giorni che sei in vacanza, non hai nulla da fare, ecco, allora, fatti uno specchietto. Poi ti segnalo, in ultimo, vabbè, oggi sai è giovedì, c'è Casa 24, che te lo dico a fare, si parla degli affitti di breve durata, ma poi c'è un problema sugli interpelli al lavoro, sai, gli interpelli sono quelle richieste che uno fa per avere un chiarimento, e il problema è che non c'è più un'entità che risponda in questo momento. Chiamate Mauro Meazza, che problema c'è? Io non sono assolutamente all'altezza, quindi invito invece a leggere Matteo Prioschi sulle pagine di Mauro. No, invece no, allora volevo dirvi, il numero di Mauro Meazza è 335-56. No, guarda, facciamo che mi scrivono verso sabato a mezzogiorno, che sicuramente risponderai. Sì, pronto, sono Mauro Meazza, pronto. Fai poco lo spiritoso che da domani, caro mio, si gioca a Pechino. Bene, molto altro ti vorrei dire, ma il tempo, come sempre, è tiranno. E allora, rinnovandosi gli auguri, questa volta per auguri, la Pasqua. Auguri. Ma no, per la Pasqua, ah, vabbè, Alessandro, auguri, per la Pasqua. Ti saluto con il mio abituale, motto finale, che è, come sempre, cari ascoltatori, traffico! Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. No! Alessandro Milan, la scimmia che balla, no, dell'informazione. Non la sopporto sta canzone. Comunque vada Pantarei. Ma perché, Peter? Ma balla, non stanno ballando Peter Bescapè e Lorenzo Nespoli, si stanno muovendo. Ci posso credere? Ma vabbè, dai, su, su, lascia perdere. Alle 7:50 minuti c'è da dire che sulla vicenda Consip c'è anche da registrare l'intervista del giorno ad Alfredo Mazzei. Alfredo Mazzei, Partito Democratico, è colui che insiste e dice c'è stata una cena, un incontro tra Romeo e Tiziano Renzi, perché dice è la famosa cena tra Romeo, Carlo Russo, consulente di Romeo, e Tiziano Renzi in una bettola a Roma. Questo aveva detto ai magistrati. Alfredo Mazzei dice: ecco la verità del testimone chiave, servizi segreti dietro la falsificazione, ma che complotto di Napolitano, querelo tutti. Oh, è il momento in cui querelano tutti. C'è stata questa confidenza di Alfredo Romeo, che ha detto: io a quella cena non c'ero, ma ha detto ho fatto una cena in una bettola a Roma con Carlo Russo e Tiziano Renzi. Vabbè, staremo a vedere. Torna la vicenda dei disabili che protestano in Sicilia con PIF, che li ha portati, ricordate, anche un scontro verbale durissimo con il presidente della regione Crocetta. E ieri a Palermo decine di persone nuovamente hanno partecipato a una marcia per chiedere che la regione Sicilia, fornisca l'assistenza ad alcune centinaia di disabili gravissimi a cui, nonostante ne abbiano diritto per legge, non è garantita o è garantita solo parzialmente. Tra l'altro c'era anche Giovanotti, c'è Giovanotti che sostiene tutto questo, c'è anche l'arcivescovo. Infatti la vicenda finisce anche su Avvenire, c'è sul Corriere della Sera un articolo di Gian Antonio Stella che racconta i soldi solo a parole ma gli impegni mancati, ecco perché la Sicilia abbandona i disabili. E anche Avvenire, la marcia muta dei disabili, Palermo, sfilano a centinaia e chiedono alla regione più assistenza e servizi. Mi sembra una battaglia totalmente giusta, legittima, che però evidentemente non trova grandi riscontri. In tutto questo c'è un'altra battaglia che per molti è una battaglia anche legittima, quella per l'eutanasia. Questo è un dibattito invece ovviamente che divide le coscienze. Dopo il caso di DJ Fabo c'è un altro italiano che andrà in Svizzera per il suicidio assistito. Si chiama Davide, che andrà aiutato anche lui, seguendo l'esempio di DJ Fabo, probabilmente da Marco Cappato. Verrà aiutato anche da Mina Welby e è un malato grave e la mamma dice: ormai lo vedo solo soffrire, ho accettato ovviamente con grande fatica la sua volontà di sottoporsi all'eutanasia, o meglio il suicidio assistito, ma da troppi anni lo vedo soffrire senza speranza. È un'intervista che questa madre fa a Libero, intervistata da Simona Voglino a pagina 16. Racconta della decisione del figlio sempre andare tramite Exit all'associazione Dignitas, quella che concede di fare il suicidio assistito in Svizzera. In tutto questo, vabbè, non voglio spendere molte parole per il convegno antivaccini, o meglio vaccini, l'altra verità, che ci sarà oggi alla Camera, l'incontro antivaccini organizzato dall'ex del Movimento 5 Stelle Zaccagnini, che ora è passato con gli scissionisti del Partito Democratico. C'è polemica per l'utilizzo della Camera di questa sala per il convegno antivaccini, ma d'altronde polemica, sono entrati anche gli agnellini ieri alla Camera, insomma, quindi gli animali, non fate le ironie sugli animali alla Camera, insomma, gli animali veri sono entrati ieri con due agnellini, Gaia e Gioia, adottati da Laura Boldrini. Mamma mia, rendete conto che danni che ci ha fatto Berlusconi con quel biberon. Adottati Gioia e Gaia, però non possono andare a casa di Laura Boldrini perché c'ha il gatto, quindi li ha adottati ma non sa che farne. Va bene, siamo alla Carta Costa, articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qui, siamo sul giorno, mezza pagina, è ufficiale, Raz de Gan ha vinto l'isola dei famosi. Ma chi se ne frega!